questo lieto e fortunato giorno ch'ha posto fin agli amorosi affanni del nostro semideo. Cantiam, pastori, in si soavi accenti, che sian degni d'Orfeo nostri concenti. Oggi fate pietosa, l'alma già si sdegnosa della belle Euridice. Oggi fatte felice Orfeo nel sen di lei, per cui già tanto per queste selve ha sospirate pianto. Dunque insiliente fortunato giorno ch'ha posto fin agli amorosi affanni del nostro semideo. Cantiam, pastori, in si soavi accenti, che sian degni d'Orfeo nostri concenti. Thank you. tu gentil cantor satuel lamenti, già feste lagrimar queste campagne, per cora suon della famosa cetra, non fai teco già in le vole poggi, sia testimon del cuore. Qualche lieta canzon, che dette amore. Circondi il tutto miri, dagli stellanti giri, dimmi, vedesti mai di me più lieto e fortunato amante? Fu ben felice il giorno mio ben che via ti felice l'ora che per te sospirai, poi che al mio sospirar tu sospirasti. Felicissimo il punto che la candida mano è se tanti cori avessi quanto occhio al cielo eterno e quante chiome a questi colli almeno il verde maggio tutti colmi sarieno e traboccanti di quel piacer ch'oggi mi fa con te. Nel tuo gioir Orfeo, la gioia mia, che non ha meco il cuore, ma te costassi in compagnia d'amore. Chiedilo dunque a lui.